Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, il nostro appuntamento con i settimanali. Vediamo che cosa di interessante, che cosa di curioso, che cosa meritevole di segnalazione abbiamo trovato sui magazine di questa settimana. Cominciamo naturalmente, come è tradizione in questi casi, dalla proposta del Sole 24 Ore, perché da ieri avete trovato in edicola insieme al nostro quotidiano 24, come sapete, il magazine del Sole 24 Ore. Ogni mese un tema, ne abbiamo parlato già nelle uscite precedenti, vi abbiamo segnalato quali sono stati i temi fin qui affrontati dal mensile. Questa volta parliamo di giovani, questa è il tema attorno al quale si snodano i vari articoli che trovate nel nostro magazine. Giovani o tutta la vita davanti, come sintetizza appunto un titolo apposto alla rubrica, all'editoriale di Fernanda Roggero, che apre il magazine e che ci spiega molto in sintesi alcuni dei contenuti appunto che trovate all'interno. Ad esempio si parla di Amelia Andersdotter, ha 22 anni, è l'europarlamentare più giovane, è stata eletta nel 2009 in Svezia per il Partito dei Pirati. Probabilmente qualcuno di voi lo ricorderà, lo schieramento cioè nato qualche anno prima, che era nato appunto in difesa del file sharing, cioè della libertà di scambiarsi file su internet. Amelia Andersdotter ha ottenuto, appunto presentandosi per questo partito curioso, il Partito dei Pirati, il seggio all'Europarlamento. Poi c'è la storia di Gilles Fleury, 28 anni, ha creato, grazie al sostegno di un parco tecnologico svizzero, un sistema di riconoscimento biometrico, cioè basato su caratteristiche personali di ognuno di noi, come possono essere le impronte digitali o l'impronta dell'occhio, un sistema di riconoscimento biometrico, dicevo, che farà piazza pulita delle decine di password cui siamo soggetti negli accessi quotidiani a internet, personal computer e cellulari. Poi ancora un'altra delle storie raccontate da 24 questo mese, quella di Davide Datri, 31 anni, dopo essersi guadagnato una laurea e un master a Londra guidando camion alla notte, fa ora concorrenza alla SIAE grazie alla sua società che si chiama Bitpick e che riesce a remunerare con maggiore regolarità i musicisti iscritti, emergenti inclusi, parametrando i compensi non al numero di dischi venduti ma al numero degli ascoltatori. Queste alcune delle storie che troviamo su 24. Però non ci sono solo esempi positivi, il mensile è andato anche alla ricerca di situazioni invece difficili per i giovani, ad esempio i giovani delle periferie disagiate dei dintorni di Parigi, oppure i giovani indiani che sono molto pressati, cercano di laurearsi in ingegneria, l'università è così selettiva che rischiano il collasso o in qualche caso addirittura, come è successo appunto, quasi anche di togliersi la vita. E poi ci sono le vicende più vicine a noi, più quotidiane, i giovani italiani, scrive Fernando Roggero, incontrati questo mese da Mr. Black, come sapete il nostro magazine ha questa inchiesta in cui un giornalista, senza rivelare la sua identità, la sua professionalità, si finge una persona in cerca di qualcosa, in questo caso era in cerca appunto di lavoratori, di giovani lavoratori. Mr. Black appunto ha provato ad assumere un mobiliere in Brianza e non ci è riuscito, e lo racconta in questo numero di 24. E poi ancora, per concludere, i sogni degli adolescenti di una classe delle medie inferiori, e a sorpresa, ci segnala sempre 24, nessuna sogna di fare la velina, ma ci sono coloro che sognano di fare i cuochi, i veterinari, i fisioterapisti. Questi alcuni dei temi di 24, ne vediamo qualcuno più da vicino. Vi dicevo di Mr. Black. Mr. Black appunto è un giornalista che, agendo, come si dice con un termine inglese, undercover, cioè sotto copertura in qualche modo, cerca di esaminare la realtà com'è, senza, quando non cercano di raccontartela, insomma, quando si tocca proprio vederla per quello che appare. Questo mese Mr. Black ha cercato di assumere dei mobilieri in Brianza. Ora, per chi non ci ascolta dalla zona vicino alla Brianza, cioè la parte a nord di Milano, una zona della Lombardia molto nota da queste parti, ma magari meno in altre regioni italiane. Vi voglio precisare che la Brianza è un po' una terra di mobilifici e di mobilieri, perché storicamente appunto moltissime fabbriche, moltissimi designer di mobili sono nati lì, hanno cominciato lì, ed è diciamo un punto di eccellenza, o come si dice qualche volta, un distretto per questo tipo di attività. Quindi cercare mobilieri in Brianza dovrebbe essere una cosa relativamente semplice. Assumere giovani mobilieri in Brianza ci si immagina che sia relativamente semplice. Ovviamente non è così, ovviamente, nel senso che come è immaginabile, prima la burocrazia e poi anche diciamo la difficoltà dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro rendono la missione di Mr. Black una vera e propria missione impossibile. Per la lettura completa vi rimando naturalmente al nostro magazine, ma vi voglio solo dare qualche piccolo estratto. Lui parte dalla Agenzia Provinciale di Monza per l'impiego, viene subito respinto perché si è rivolto all'agenzia sbagliata dal punto di vista territoriale, quindi da Monza lo rimandano subito a Cesano Maderno, perché non è andato nel posto giusto. Va all'agenzia di Cesano Maderno, gli chiedono di compilare tutta una serie di moduli particolarmente complessi e in pratica non riesce assolutamente a sapere se c'è qualche giovane immobiliere che cerca lavoro. Terza tappa all'Istituto Professionale Meroni di Lissone, e poi infine la tappa finale all'Agenzia Interinale, dove scrive Mr. Black: il direttore della filiale mi ascolta e ride, mette le mani avanti. Questa è una missione impossibile. Ci sono professionalità, viene spiegato a Mr. Black, sulle quali ci siamo arresi. Non trovi un curriculum a pagarlo oro. Le imprese si affidano ai passaparola, diffidano di un tecnico del legno, di un tornitore specializzato nelle macchine a controllo numerico in cerca di lavoro. Vuol dire che ha qualche problema. L'agenzia eppure è piena di curriculum, ci trovi professionalità di tutti i tipi, meno quelle che interessano alle imprese. Insisto, scrive Mr. Black, voglio avere un quadro generale, sto cercando altre figure professionali, li sfido, sono sicuro che avete qualcosa, magari nella banca dati di un'altra filiale. Il direttore, che è un laureato in psicologia, e le due impiegate, una laurea in filosofia e una laurea in scienze politiche, aprono file e archivi online, mettono insieme tutti i curriculum della provincia di Milano e Monza, ne emergono 1602 richieste di lavoro di giovani da 25 a 30 anni presentate nel 2009. Solo 13 su 1602 cercano un posto nel settore del legno, ma sono operai generici e carpentieri con titolo di studio massimo la licenza media. Ci sono però 147 laureati in marketing o comunicazione con possibilità di trovare un posto vicine allo zero. 115 poi hanno una laurea in giurisprudenza, offerte di lavoro rare, rarissime, e hanno difficoltà a sistemarsi i 41 laureati in biologia, 158 specializzati in lingue e letterature straniere, i 14 che hanno studiato filosofia, ma nessuno che sappia lucidare, rifinire o curvare il legno. E io i mobili con chi li faccio? Le contraddizioni del lavoro e le difficoltà per i giovani naturalmente di trovare lavoro devo dire emergono in diversi dei magazine di questa settimana. Ad esempio una cosa anche per stemperare questi dati, che non sono sicuramente bene auguranti, una vignetta che è comparsa su LK giovedì con il Corriere, con il 7, il supplemento del Corriere della Sera. LK scrive: per il loro futuro, dice una prima figura, i giovani sognano qualcosa di stabile, fisso, sicuro. E l'altra figura risponde: tranquilli, gli lasciamo un debito pubblico che non glielo toglie più nessuno. Era un tentativo anche per sdrammatizzare, ma in realtà, vedendo con un'altra proposta che trovate sempre con il Sole 24 Ore in questi giorni, si tratta dell'Impresa. L'Impresa è una rivista molto nota a chi si occupa di management, è la rivista italiana di management, e viene proposta anche questo mese con il Sole 24 Ore con una intervista a Henry Mintzberg. Ecco, nelle pagine dell'Impresa si trova ad esempio una serie di statistiche, molto interessanti, interessanti sul mercato del lavoro in cifre. Le categorie più richieste a marzo 2010 risultano, ad esempio, gli operai addetti alla manutenzione, gli addetti al commerciale, alle vendite, gli addetti alla produzione, e poi, scendendo, qui eravamo su percentuali diciamo sopra il 10%, intorno al 13%, scendendo ci sono richieste per l'amministrazione o la segreteria e per il 7% e per l'informatica a un 6%. Dove c'è una richiesta maggiore? Nel turismo e nella ristorazione si è visto un incremento maggiore nel marzo appunto del 2010, un incremento del 4%. Si piazza bene però anche ingegneria con un incremento del 2,8%. Marketing, pubblicità, pubbliche relazioni sono più indietro all'1,9%. Che cosa? Quali sono i settori che portano un'offerta, portano maggiore offerta di posti di lavoro? In questo momento, secondo i dati di InfoJob che vengono presentati appunto sull'impresa, che trovate insieme al Sole 24 Ore in questi giorni, in vendita insieme al Sole 24 Ore, i settori più attivi nell'offrire posti sono il software e i servizi, 14,8%, seguiti dal commercio e dalla distribuzione, il 14,7%. Molto più indietro banche, assicurazioni e servizi finanziari, che si fermano a un 5%. È interessante notare la variazione di questi settori, perché appunto il software risulta non solo con un dato molto alto, ma con un incremento alto del 4%, così anche il commercio e anche la stessa pubblicità e marketing segnano una variazione in salita. Banche, assicurazioni e servizi finanziari invece hanno una diminuzione nell'offerta di posti di lavoro. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di giovani, ne stavamo parlando perché, come vi spiegavo, il nostro mensile 24, che trovate da ieri con il Sole 24 Ore, si occupa appunto di giovani, storie di giovani, anche e soprattutto stavamo parlando del problema, ohimè, del lavoro, della difficoltà di trovare lavoro, della difficoltà magari di trovare un lavoro stabile in qualche modo. I dati che vi ho segnalato dall'impresa confermano un po' questa difficoltà a incrociare l'offerta che viene dai sistemi di formazione, dalle scuole, con le richieste delle imprese. Sull'Espresso di questa settimana un articolo utile a chiudere un po' il nostro discorso, perché si parla dell'Italia vista dai trentenni. Nel settore che viene indicato come emergenza economia, Filippo Taddei, Gianluca Briguglia e Giuseppe Civati, che sono tre testimonial, cioè sono tre trentenni o poco più che trentenni, che in qualche modo molto talentuosi hanno sfondato o in Italia o all'estero, sono sicuramente giovani di talento, di valore, provano a indicare le criticità del nostro paese. Spiega il sommario sotto questo titolo: l'Italia vista dai trentenni, la nostra crisi viene da lontano, la politica non è in grado di interpretarla e produrre ricette, ecco perché il futuro dei giovani è ormai compromesso. Ecco, naturalmente augurandoci che questo tipo di indicazione sia assolutamente sbagliata, però vi do invece lettura di qualche passaggio in cui appunto i tre cercano di indicare le maggiori criticità. Ad esempio Filippo Taddei, che è assistant professor al Collegio Carlo Alberto di Torino, si occupa di macroeconomia e di credito, ha insegnato anche alla Columbia University, dice: c'è un problema naturalmente con i lavoratori atipici, non sono tutelati, se perdono il lavoro avranno pensioni ridicole, dice Taddei. Siamo però davvero peculiari in questo, perfino Spagna o i brutali Stati Uniti sono più attrezzati di noi. E prosegue ancora Taddei, la disoccupazione in termini complessivi, cioè considerando anche l'utilizzo della cassa integrazione, sembra crescere, sembra essere comunque molto alta. Lui arriva a una stima dell'11%, dice perfino maggiore del 10% americano, correggendo quindi al rialzo quelle che sono le stime ufficiali, che invece sono nettamente più basse per il nostro paese. Terzo, e ancora l'argomentazione di Taddei, abbiamo scoperto il dramma dei milleuristi, lavoratori spesso qualificati che guadagnano poco più di 1000 euro al mese e hanno progressioni salariali lentissime. In Italia si cominciava sempre con salari bassi, ma che poi crescevano in fretta. Oggi non è più così e il modello esistente di inizio della carriera lavorativa, quindi il problema in una parola di ingresso nel mondo del lavoro, questo modello, dice Taddei, non è così sostenibile. Cambiamo decisamente argomento. Avete visto su tutti i giornali ieri questa importantissima scoperta della vita artificiale. Siamo andati in qualche modo all'origine perché due magazine avevano in anticipo questa notizia, l'uno Science, ma più importante, più accessibile forse l'Economist appunto aveva questa copertina in esclusiva, ha potuto già spenderla nel suo numero. Titolo di copertina è l'uomo creò la vita, il primo organismo artificiale e le sue conseguenze all'interno, la corrispondenza, ne avete ovviamente sentito parlare molto anche qui a Radio 24 per questa scoperta di Craig Venter, che è riuscito a sintetizzare, partendo da una cellula naturale, però proprio una forma di vita da lui creata, determinata dai computer. E l'attacco è abbastanza curioso, molto anglosassone peraltro, dice: alla fine non c'era un castello, non c'erano tempeste, non c'erano assistenti di laboratorio gobbi, ciononostante Craig Venter, Hamilton Smith e i loro colleghi sono riusciti per davvero a fare quello che Mary Shelley aveva soltanto immaginato. Di cosa si parla? Naturalmente di Frankenstein, il libro del 1818 di Mary Shelley, poi naturalmente diventato famosissimo, noto in tutto il mondo per le multiple riduzioni per il cinema. Il 20 di maggio, scrive ancora l'Economist, sulle pagine di Science hanno annunciato di aver creato una creatura vivente partendo, ripeto, da una programmazione computerizzata, quindi in qualche modo un organismo artificiale. In questo senso avete letto su tutti i giornali di vita artificiale. Il risultato è la prima creatura dall'inizio delle creature che non ha genitori. Quello che è, il modo in cui vive, dipendono soltanto dal programma che è stato inserito dagli scienziati del Craig Venter Institute e poi gestito nei computer di Rockville nel Maryland e di San Diego in California. Questa appunto la creatura artificiale messa appunto da Craig Venter e di cui avete letto su tutti i giornali, l'abbiamo ripresa dall'Economist, che aveva in esclusiva tra i vari magazine italiani e stranieri questa segnalazione. Passiamo ad un argomento più leggero, ma molto più vicino però quanto a svolgimento pratico, perché vi voglio parlare della partita di questa sera. Ne avrete sentito parlare tantissimo, lo voglio fare anch'io, perché anche i magazine naturalmente hanno accompagnato l'avvicinamento a questa finale di Champions League che si gioca questa sera tra Inter e Bayern a Madrid. Lo potete seguire naturalmente anche su Radio 24. Radio 24 avrà una trasmissione dedicata, approfondimenti, quindi vi invito, se non potete o non volete seguirla in televisione, a seguirla con le nostre frequenze. Quali sono un po' i magazine che hanno cercato di anticipare la partita? Beh, curiosamente Vita, che è il magazine che si dedica al mondo del non profit, si è occupato dell'Inter, cioè ha giocato un po' sulla concomitanza di questo evento, perché parla di Internazionale Social Club. Giocherà la partita attesa da 45 anni, spiega nella sua copertina, senza un italiano in campo. L'Inter è l'emblema di un calcio di un mondo senza confini. Questo è detto in termini positivi, nonostante ci siano a volte delle polemiche su questo. E all'interno poi Vita spiega tutte le varie iniziative sociali che i calciatori dell'Inter, appunto, e anche la dirigenza dell'Inter prendono, tutte le varie attività di beneficenza, e in questa chiave ha cercato di anticipare l'evento. Su Vanity Fair in copertina Mario Balotelli, il calciatore dell'Inter, anche lui atteso questa sera alla prova con il Bayern, con un'intervista per Vanity Fair, e infine anche naturalmente Sorrisi e Canzoni TV, che si dedica alla parte del seguito televisivo della partita. E allora vedremo come andrà a finire. Noi per oggi ci fermiamo qui, vi do appuntamento a domani mattina sempre alle 8:30 per una nuova puntata di Magazine 24. Grazie a Pietro Lacorte in regia, grazie a Margherita Aina e a Vittoria Mussini che mi hanno aiutato a preparare questo programma. A domani.